L'idea di far di organizzare questo incontro è nata insieme da Baraonda e Markspedia, con poi appunto poi abbiamo chiesto aiuto poi anche all'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, per fare un punto della situazione a partire dal momento in cui ci troviamo adesso. In questo momento ci troviamo in un momento che è evidentemente caldo dal punto di vista dell'antifascismo, nel senso che ci troviamo a pochi giorni dal centenario della marcia su Roma, a essere in mezzo tra l'insediamento di quello che può essere uno dei parlamenti più a destra, forse il parlamento più a destra dell'Italia repubblicana, e l'insediamento del governo Meloni, probabile governo Meloni, ma ormai praticamente sicuro, insomma. Quindi da questo nasce la necessità di fare un punto sul movimento antifascista, appunto, per iniziare a fare un'analisi della situazione e iniziare a capire cosa può fare il movimento antifascista per arginare una crescita delle destre estreme. Quindi appunto ci troviamo in questo contesto politico in cui si sta per insediare un governo che noi riteniamo che non sarà tendenzialmente un governo fascista, però sarà un governo di cui faranno parte dei fascisti. E questa, la prima dimostrazione è stata appunto l'elezione di quelli che sono stati presidenti della Camera e Senato, appunto La Russa e Fontana. Questo governo appunto dovrà mostrarsi come il liberale all'estero, alla NATO, all'Unione Europea, e al contempo dovrà accontentare il suo elettorato. E quindi in qualche modo tendenzialmente prima o poi, probabilmente non subito, però prima o poi si rischia una stretta su quelli che possono essere appunto i diritti delle persone queer, i diritti delle persone migranti, la repressione e appunto i risultati ottenuti negli anni dalle lotte femministe. E questo ci porta davanti a una delle contraddizioni che in qualche modo riflettono, no, le contraddizioni della nostra società, di trovarci quindi quella che potrebbe essere la prima premier donna in Italia a essere una persona che di fatto rischia di minacciare quelle che sono le conquiste fatte nella storia dei movimenti femministi. In primis appunto il diritto all'aborto, a cui quantomeno si è sempre opposto, quantomeno il suo partito si è sempre opposto. E in tutte queste contraddizioni rimane un gigantesco punto di domanda, che è il ruolo delle destre non istituzionali, nel senso che in questo momento le destre non istituzionali sono state, quindi tutta quella galassia, no, di piccole e grandi realtà esplicitamente fasciste, in modo molto più dichiarato di quelli che sono i partiti di destra che attualmente siedono in Parlamento. Tutta questa galassia è stata un'arma fino ad adesso per i partiti come Fratelli d'Italia, e adesso rischia di diventarne un peso, proprio perché ne minaccia l'istituzionalità. Quindi è anche un momento interessante su cui fare un'analisi su tutto questo, perché da una parte può essere un momento in cui le istituzioni potrebbero andare a rinforzare i movimenti di estrema destra, e dall'altra potrebbe essere un momento in cui a maggior ragione avranno bisogno di schiacciarli in qualche modo, di demolirli proprio per mantenere una propria immagine istituzionale. E per questo abbiamo invitato qui appunto Eric Gobetti, storico, e Saverio Ferrari, che appunto con l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre ha fatto molto studio su, per quanto riguarda gli attuali neofascismi, e proprio per parlare di tutti gli argomenti che ho velocemente accennato in questa introduzione, che poi mano a mano sviscereremo insieme. Chiaramente anche tutti questi sono spunti per quelle che potrebbero essere le domande dopo i primi interventi di Eric e di Saverio. Quindi vorrei partire chiedendo a Eric, proprio per il fatto che ci troviamo a pochi giorni da quella che è stata, a pochi giorni dal centenario di quello che è stata la marcia su Roma, volevamo chiedere quali sono stati gli errori del movimento, insomma, dei movimenti politici di sinistra che si trovavano in contrasto col fascismo all'epoca, e cosa possiamo imparare da questi errori in qualche modo per non finire a fare gli stessi errori. Funziona, è acceso, sì. Grazie dell'invito innanzitutto, grazie a voi che siete qua ad ascoltarci questo pomeriggio. Io non so se sono in grado di rispondere già a questa domanda, quindi partiamo male, ma anche tutti gli argomenti che sono stati sollevati, su cui susciteremo dibattito, posso partecipare a suscitare il dibattito, ma non so se sono in grado di dare risposte chiare e univoche a tutta questa complessa galassia di problemi che hanno portato alla situazione attuale. Che dire? La marcia su Roma, secondo me, ci insegna un paio di cose che possono. La marcia su Roma storica, cioè quella di 100 anni fa, ci insegna un paio di cose che possono essere tornare utili effettivamente oggi per capire la situazione attuale. Sicuramente una è la disunione, la disunità della sinistra, cioè dell'antifascismo. Che è un elemento che noi oggi, con cui oggi ci confrontiamo quotidianamente, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. All'epoca il contesto era completamente diverso, quindi è difficile fare un paragone, però sicuramente questo è uno degli aspetti che hanno contribuito al successo del fascismo. L'aspetto che però più di tutti ha contribuito al successo del fascismo 100 anni fa credo che sia essenzialmente la connivenza delle istituzioni e dei poteri forti, tra virgolette, dell'epoca, in particolare i grandi industriali del nord, gli agrari dell'Emilia, della Toscana, i latifondisti del sud, cioè le grandi forze conservatrici e reazionarie che hanno dato il loro appoggio economico in termini di mezzi e in termini di appoggio anche in definitiva istituzionale. Di fatto Mussolini è stato chiamato al governo dal Presidente della Repubblica, ma ovviamente dal re. Il quasi lapsus però ci riporta all'oggi. Di nuovo quello che succede oggi in qualche modo è la conseguenza della connivenza dei poteri forti nel successo di questi partiti politici, di questa logica politica e dei colossali errori della sinistra, ma direi di tutto ciò che è democratico e che non è fascista nella politica contemporanea, che non è stato minimamente in grado di fronteggiare la marea nera che in questi anni è avanzata nel nostro paese. Non solo non l'ha fronteggiata, ma io credo che con una serie di politiche della memoria volte a creare una fantomatica pacificazione nel nostro paese sulla base di una dell'appartenenza nazionale, quindi sostanzialmente del modello politico nazionalista, ha favorito questo tipo di partiti politici. Io credo che dal mio punto di vista da storico leggo la situazione politica attuale come in parte anche la conseguenza di politiche della memoria legate quindi alla storia del Novecento, alla storia del fascismo, alla storia del nazionalismo e agli anni più bui della storia del nostro paese, appunto la conseguenza di politiche della memoria che hanno sdoganato il fascismo, l'hanno normalizzato, l'hanno reso una pagina non così buia della nostra storia. Mussolini ha fatto anche cose buone, ma di fatto Mussolini ha fatto solo cose buone a quanto pare. Ormai se guardiamo i mass media, se guardiamo le dichiarazioni dei politici, non si capisce dove che ha sbagliato. L'unica cosa che gli viene attribuita, l'unico errore che gli viene attribuito è di essersi alleato con la Germania nazista. In ogni fiction televisiva storica, in ogni programma televisivo in cui dominano sempre le solite facce di reazionari che conosciamo bene, Bruno Vespa, Paolo Mieli, eccetera, l'immagine che ci viene data della storia del fascismo è sempre la stessa ed è sempre quella. E appunto da una parte predomina la normalizzazione del fascismo e dall'altra la glorificazione del patriottismo nazionalista sostanzialmente. Il caso delle foibe, qua non mi addentro perché come sapete potrei parlarne all'infinito, però è il caso più emblematico, no? In cui si incrociano esattamente questi due fenomeni: da una parte i fascisti che non hanno fatto niente di male, che non sono colpevoli, che non hanno nessuna responsabilità in quel contesto, e dall'altra gli eroi con cui noi ci riconosciamo, che sono eroi in quanto stavano dalla parte della patria, dalla parte della nazione, quindi ignorando completamente il contrasto che realmente attraversava quei territori durante l'epoca fascista, durante la guerra mondiale, che era un contrasto di tipo ideologico, cioè fascisti e antifascisti, a prescindere dall'identità nazionale e a prescindere appunto dal nazionalismo. Anzi, gli antifascisti erano internazionalisti in quel contesto storico. E quindi ecco, credo che il predominio di questa della destra nazionalista e in parte anche neofascista sulle politiche memoriali in Italia negli ultimi 30-40 anni ha contribuito a creare il terreno fertile per il risultato attuale. Ultimamente cito spesso una frase che è uno degli slogan del Partito Unico di 1984, il romanzo di George Orwell, che diceva: chi controlla il passato controlla il futuro. Ecco, io credo che stia accadendo realmente questo in questo contesto. Questi hanno preso il controllo del passato e in questo modo hanno ipotecato il nostro presente e anche il nostro futuro. Beh, grazie mille. Ok, collettivamente avevamo deciso anche una cosa invece di cui parlare, una cosa da chiedere invece più a Saverio, insomma, riguardo invece, cioè, come sta andando riguardo ai rapporti tra la destra istituzionale, quindi quella che adesso si trova ad avere, si troverà ad avere le principali cariche dello Stato in qualche modo, che rapporti ci sono tra questa destra e le estreme destre non istituzionali, quindi come sono messi, come stanno i movimenti neofascisti in qualche modo e come si rapportano con quelli che sono invece le destre di governo. Sì, sente, rispondo facendo un aggancio però a quello che ha appena detto Eric sulla marcia su Roma, perché c'è un grande fiorire in queste settimane di articoli, ma anche di libri che vengono rieditati e altri che vengono quasi scritti ad hoc. E c'è tutto questo dibattito se sia stato un bluff oppure no. Sottovalutando e sminuendo, questo lo dicono in verità alcuni storici, l'estrema violenza della marcia su Roma, perché si fa sempre riferimento al fatto che questi erano inzuppati d'acqua perché pioveva, avevano pochi fucili, tende non sufficienti, erano però tre colonne di 26.000 persone, secondo anche uno storico, chiamiamolo, accreditato in ambito borghese, Emilio Gentile. Partirono già il 27, occuparono città intere, Cremona, Siena, Pisa, Perugia, ci furono morti e feriti, puntarono su Roma e poi quando entrarono il 30 si scontrarono a San Lorenzo facendo morti e feriti rispetto ai comunisti di San Lorenzo, che erano quelli che gli unici o pochi in Italia che si opposero alla marcia su Roma. Potrebbe essere stato anche un bluff, poi vediamo di dire qualche cosa da questo punto di vista, ma fu un atto estremamente violento, bluff. L'idea è quello che dice Eric e quello che io condivido, è che cioè questa cosa riuscì perché la borghesia, i poteri forti di allora, il re, l'esercito, decisero che quella era la carta da giocare, ma che i fascisti non sapessero ancora che loro sarebbero stati la carta da giocare, noi la possiamo vedere che cosa successe il 28 ottobre a Milano, senza andare in giro per l'Italia, perché I fascisti all'alba del 28 ottobre si barricarono a Milano, alla Casa del Fascio, in via San Marco, e soprattutto alla redazione del Popolo d'Italia, dove ci sono ancora le fotografie che sono reperibili. Fecero delle barricate anche improbabili con le bobine di carta che doveva servire per stampare il giornale, e si misero dentro coi fucili, presente Mussolini, circondati dalle guardie regie. C'era un'autoblinda e c'erano le mitragliatrici. Partì anche una fucilata che sfiorò l'orecchio di Mussolini, e loro erano lì. Chiesero agli ufficiali delle guardie regie che cosa avessero intenzione di fare. Loro gli hanno detto: fin quando non ci dicono che non vi dobbiamo tenere sotto assedio, noi vi teniamo sotto assedio. Loro si asserragliarono lì dentro. Poi alla sera del 28 arrivò la telefonata e poi il telegramma a Mussolini, che doveva formare il governo, e partì poi il 29 per Roma. Ma se non ci fossero stati appunto coloro che volevano investire sui fascisti, i fascisti lo sapevano da soli, al di là della loro estrema violenza, nulla avrebbero potuto fare. Estrema violenza, perché una delle ragioni della sconfitta del movimento operaio e dei partiti di sinistra furono i 2 anni di squadrismo sistematico, guidato da ufficiali dell'esercito, con l'appoggio dell'esercito, con le armi dell'esercito, che assaltarono tutto, distrussero tutto, case del popolo, sedi di partito, redazioni di giornali. Eliminarono, occupando le amministrazioni comunali, i sindaci socialisti che erano stati eletti con il voto. Si parte il 21 novembre del 2021 con Palazzo Accursio a Bologna, dove i socialisti vengono cacciati, ci sono anche lì morti e feriti, dopo essere stati eletti al governo dell'amministrazione di Bologna. E cioè uno degli elementi della sconfitta sta nel fatto che il movimento operaio, i socialisti e successivamente i comunisti non avevano, come dire, avuto la capacità di contrastare quello che aveva spianato la strada, che aveva consentito ai fascisti di potersi offrire come carta per la borghesia dopo il biennio rosso, perché qualcuno giustamente definisce la marcia su Roma una specie di controrivoluzione preventiva, perché avevano visto i padroni le occupazioni delle fabbriche e avevano avuto paura lì, essendo fallito il passaggio a, si diceva da parte dei socialisti all'epoca, di fare come in Russia, siccome come in Russia non si è arrivati, e ovviamente quando si è capito che in Russia non si arrivava, si è fatta una scelta diversa da parte degli agrari, degli industriali, dei latifondisti, si è organizzato lo squadrismo, si è demolito letteralmente la forza del movimento operaio, e poi c'è stata la marcia su Roma. I fascisti, i neofascisti, c'è un problema quando parliamo di queste cose qua. Dove includiamo i Fratelli d'Italia? Perché è, come dire, un dibattito assolutamente attuale. Partiamo da loro. I Fratelli d'Italia non sono un partito semplicemente di estrema destra, questa è la mia opinione, e nemmeno semplicemente un partito populista. Sono un partito erede della tradizione del neofascismo italiano, che cerca di difendere anche con orgoglio, perché quando gli è stato chiesto di togliere la fiamma dal simbolo, si sono, come dire, orgogliosamente inalberati dicendo che è parte del loro patrimonio. Quella fiamma lì è stata messa nel 2017 nel simbolo dei Fratelli d'Italia, prima non c'era. Quando loro nascono nel 2012 c'era il simbolo di Alleanza Nazionale. Loro fanno una rifondazione missina nel congresso del 2017 che fanno a Trieste, scelgono la città, i confini che per loro è, come dire, la storia della italianità rispetto a tutto ciò che sul confine premeva e dentro i confini premeva. E nel 2017 loro tolgono il simbolo di Alleanza Nazionale e ingigantiscono il simbolo della fiamma. L'avete letto sui giornali, il simbolo della fiamma ha una storia, non è che sia stato messo lì così per niente, è stato modificato, non c'è più, c'è solo la lineetta in fondo, una volta c'era il trapezio che i reduci, non qualche giornalista d'assalto, i reduci dicevano quelli che nel 1946 fondarono il Movimento Sociale Italiano era la bara di Mussolini, la fiamma ardeva lì, la fiamma eterna, e guardate che questa cosa è stata, come dire, inventata attraverso soprattutto quel primo segretario di allora che era Giorgio Almirante, che era il segretario dei più nostalgici della Repubblica di Salò, quello che ha fatto anche il simbolo, l'inno del Movimento Sociale Italiano. L'inno del Movimento Sociale Italiano, fatto nel 1948 a firma di Giorgio Almirante, dice alla prima strofa: siamo nati in un cupo tramonto di rinuncia, vergogna, dolore, siamo nati in un atto d'amore, riscattando l'altrui disonore. Se uno capisce le parole, è la rivendicazione della Repubblica Sociale Italiana. Se uno tiene questo simbolo, non è che in Alleanza Nazionale i simboli non fossero passati eredi del Movimento Sociale Italiano, il simbolo di Azione Giovani era recuperato dal vecchio simbolo del Fronte della Gioventù, ma sarebbe lungo da questo punto di vista. Perché insisto sul simbolo? Perché il simbolo, come in tutti i movimenti, è l'identità, parla più di parole e di documenti. E la sigla MSI, come ti dicevano i reduci, è M di Mussolini, SI di Repubblica Sociale Italiana, la SI. Le cose non erano state fatte a caso. Poi Giorgio Almirante, che ha fatto, come dire, l'operazione di avvio di questa storia, è stato sostituito da altri segretari più moderati negli anni 50, perché il Movimento Sociale Italiano doveva essere sussunto nella Guerra Fredda dalla parte dell'Alleanza Atlantica. E quando ancora oggi, e parliamo magari dei Fratelli d'Italia, si dice queste, come dire, pulsioni verso i modelli dell'Est, della Polonia, dell'Ungheria e della Russia, è vero come modello sociale, ma guardate che non è semplicemente per chi vuole governare, è una tradizione di quella storia l'essere degli atlantisti. Loro sono sempre stati da quella parte lì, i loro dirigenti sono sempre stati quelli che hanno fatto quella scelta. Quando c'è la guerra dei sei giorni, quella che comporta in Medio Oriente tra l'Egitto e Israele, i paesi arabi, il Movimento Sociale Italiano col suo comitato centrale si schiera dalla parte di Israele. Hanno sempre fatto quella scelta. Il presidente del Movimento Sociale Italiano negli anni, come dire, ruggenti, era Junio Valerio Borghese, uomo degli americani, perché gli avevano anche salvato la vita, se non altro, così come i principali dirigenti che affiancavano il primo Movimento Sociale Italiano, Pino Nettuno Romualdi, Nettuno si chiamava anche di nome, oltre che Pino, gli aveva salvato la vita dal plotone d'esecuzione ancora una volta gli americani. Quindi non meravigliatevi, il sovranismo, uno è il modello sociale e uno la collocazione internazionale e militare, questi stanno da quella parte lì, sono sempre stati, a partire dal Movimento Sociale, collocati in quel modo lì. Ma poi questi hanno tenuto i rapporti con i neofascisti quando noi tutti quanti non vedevamo i Fratelli d'Italia come una forza politica pericolosa, perché loro quando si presentano la prima volta, il 2013, pigliano il 2%. E lì cominciano a intessere rapporti e fanno i loro meeting che nessuno considera, i giornalisti non li pigliano in considerazione. Qui a Milano, quando fanno la festa nazionale nel 2018, invitano a parlare Roberto Fiore, invitano a parlare quelli di Memento, che sono quelli di Lealtà Azione. I rapporti sono organici, sistematici, distinti. C'è un uso che viene fatto, ma c'è una relazione, un rapporto, cioè non c'è un discrimine tra i Fratelli d'Italia e le organizzazioni neofasciste in Italia. Poi quando cominciano a salire vertiginosamente dal punto di vista dei voti e dei sondaggi, ovviamente si danno una veste di un certo tipo. Ma quando fanno sempre quel congresso del 2017, il buon Ignazio La Russa, presidente del Senato, va a sventolare dentro al congresso lo striscione della sezione del MIS di Colle Oppio, che era la sezione dei picchiatori. Se voi volete, come dire, entrare nel Movimento Sociale Italiano di quegli anni, leggete Autobiografia di un picchiatore fascista di Giulio Salierno, che era uno di quelli lì, era un dirigente della sezione di Colle Oppio, e lui faceva il picchiatore, faceva, e ha avuto in animo come progetto di uccidere, assassinare il colonnello Valerio, quello che aveva giustiziato Mussolini e gli altri gerarchi. Non ce la fece perché la cosa finì male, finì in carcere per lungo tempo. Lui doveva uccidere il colonnello Valerio perché all'interno del Movimento Sociale Italiano c'era questo obiettivo. E lo racconta lui, erano andati in delegazione da Francisco Franco, che gli aveva detto: ma come, voi venite qui e nelle strade di Roma gira liberamente l'assassino di Mussolini, non vi vergognate? Questi tornarono a Roma e cominciarono a ingegnarsi di come far fuori il colonnello Valerio, e avevano fatto una preparazione dell'attentato molto accurata, e l'uomo di punta era questo Giulio Salierno, che lo racconta nella sua autobiografia. Giulio Salierno poi è finito dopo il carcere, e anzi dentro al carcere, a maturare opinioni politiche completamente diverse, iscrivendosi al Partito Comunista. Io l'ho conosciuto in Democrazia Proletaria e ho avuto modo di chiacchierare a lungo con lui, a farmi raccontare anche le cose che nel libro non c'erano. Ma se uno vuole capire quel movimento, quella realtà, a partire da quegli anni, io consiglio sempre di leggere quel libro, che è assolutamente non un romanzo ma un resoconto puntuale di un'esperienza diretta fatta in quel modo. Ecco, sì, se uno sventola lo striscione di Colle Oppio, sventola lo striscione di questi qui. Lì c'era Isabella Rauti, che ha fatto l'apologia di suo papà. Isabella Rauti, il papà, sarebbe lungo parlarne, fondatore del movimento nazifascista e terrorista, responsabile materiale come esecutore delle stragi nere, che era Ordine Nuovo. I rapporti internazionali poi dei Fratelli d'Italia, su cui molti si sono dilungati, ti dice la natura di questa formazione, no? Il loro modello sociale è quel modello lì, della democrazia illiberale di Viktor Orbán, dei clerico-fascisti di diritto e giustizia in Polonia, e guardano anche alla Russia come guardano i neofascisti, poi dirò, per certe ragioni, ma guardando soprattutto al movimento trumpista negli Stati Uniti. Non sembri una contraddizione, perché il movimento trumpista negli Stati Uniti è un moderno movimento fascista, e piace il disprezzo per lo Stato di diritto, piacciono quelle cose di un movimento che ha dentro di sé elementi di integralismo religioso, ha dentro di sé il razzismo, ha dentro di sé una concezione violenta della politica, autoritaria della politica. Per cui guardate che il neofascismo in Italia, quello anche ai bordi e ai confini di estrema destra che si sovrappone, che dei Fratelli d'Italia, ha questo tipo di apparente contraddizione, ha dei modelli di riferimento, ha una sua collocazione internazionale e militare, e guarda con simpatia al movimento repubblicano negli Stati Uniti, perché potrebbe congiungersi dal punto di vista del modello sociale con quelli che stanno dall'altra parte dell'Atlantico, almeno per alcuni punti. Giorgia Meloni è andata nel febbraio di quest'anno in Florida, a Orlando in Florida, al meeting principale del movimento dei repubblicani presento Trump, e nel maggio di quest'anno la cosa è stata fatta, guarda caso, dai conservatori repubblicani degli Stati Uniti a Budapest. L'hanno fatta a Budapest, video messaggio di Donald Trump, intervento di apertura di Viktor Orban, presente Meloni. Se voi leggete che cosa si sono detti questi a Budapest: sostituzione etnica, genocidio bianco, dobbiamo coordinare le truppe della destra per riuscire a sconfiggere la sinistra globalista. Ecco, quindi questa è la direzione di questo partito, che non ha bisogno, e anzi cercherà di emendarsi, come sta facendo adesso, di quelli che in modo conclamato si definiscono neofascisti: Forza Nuova, Casa Pound, Lealtà Azione. Qual è la situazione in questo momento di costoro? La guerra li ha divisi. Hanno cercato, come dire, di rendere compatibile la divisione che è passata al loro interno, ma la divisione ha dei motivi storici abbastanza chiari. Forza Nuova si è schierata dalla parte della Russia e ha fatto il salto della quaglia anni fa, perché Forza Nuova partecipò, o meglio, sostenne la cosiddetta rivoluzione di Piazza Maidan, sostenendo Svoboda, che era il partito nazionalsocialista ucraino. Dopodiché si è resa conto che lì c'erano i dollari americani, si è resa conto che questi si battevano per entrare nell'Unione Europea e forse, come dire, era una forte contraddizione con le proprie posizioni. E i russi gli avevano detto: ma guardate che potete, come dire, avere un rapporto invece con noi anche per i vostri interessi, perché Forza Nuova è sì un partito politico, ma è soprattutto un comitato di affari. E quindi gli investimenti che loro hanno potuto fare in Crimea li hanno potuti fare grazie alla Russia, che è venuta incontro e gli ha detto: noi possiamo essere la vostra sponda. E i russi erano anche una sponda dal punto di vista del modello sociale che in un qualche modo proponevano, e quindi Forza Nuova si è schierata coerentemente dalla parte di Mosca. Gli altri si sono schierati dalla parte di Kiev soprattutto per una ragione di vecchie tradizioni cameratesche, perché Casa Pound ha partecipato a tutti i meeting dei neonazisti ucraini, 2016-2017 a Kiev, le conference, Pan-Europe Conference, i campi paramilitari di Pravi Sektor. Loro hanno partecipato a tutte queste cose qui e in un qualche modo il cameratismo impone, hanno partecipato anche dei meeting fatti nel 2018 a Kiev, promossi dal battaglione Azov. E quindi, per ragioni che stanno dentro alla logica di chi è un neofascista, si sono messi da quella parte. Ma non è che questa sia una contraddizione insanabile rispetto a quel mondo. Dopodiché se la passano male. Forza Nuova se la passa male perché dopo l'assalto alla CGIL, avendo fatto il passo più lungo della gamba, si è trovata nei guai. Loro hanno alimentato quel movimento da cui loro sono usciti con quell'azione squadrista, perché questa poi è la storia che va anche rivista. I soldi di Roberto Fiore sono serviti in quegli anni lì a finanziare i movimenti pro vita, a finanziare i movimenti integralisti cattolici, a cui Forza Nuova è interna, non è esterna. E hanno dato, ci sono 6 procure che hanno cominciato a indagare sul flusso di denaro che usciva dalle casse di Forza Nuova, che entrava e usciva da società che si aprivano e si chiudevano e che avevano lo scopo di finanziare quel movimento. Loro, quando si sono trovati con i Novax e gli integralisti cattolici in Piazza del Popolo, si sono trovati con migliaia di persone, hanno pensato che potessero fare un passo in più e hanno pensato di essere, siccome loro sono fascisti davvero, dovevano marcare anche la competizione con gli altri. Dice: noi non siamo mica come voi che fate i sit-in, noi andiamo alla CGIL e la saltiamo come facevano i nostri nonni una volta, e l'hanno fatto. Il passo è stato esiziale per loro. Una serie di questioni che sono processuali, che non gli comporteranno probabilmente comunque grandissimi danni, qualche danno, però gli hanno compromesso il movimento, che si è profondamente isolato e si è soprattutto rotto dal punto di vista del rapporto con il movimento che era cresciuto durante la pandemia. E quindi è entrata in contraddizione per questa vicenda anche, sono entrati in contraddizione anche questi aspetti. E quindi sono in una condizione difficile. La magistratura ha messo gli occhi ancor prima su Forza Nuova, non solo sui suoi soldi, per alcune cose brutte che avvenivano nella città di Roma, i Bangla Tour. Cioè era successo che a un certo punto c'era un certo numero, tanti, almeno una sessantina, di venditori di rose pakistani che risultavano essere stati aggrediti. Loro non denunciavano ovviamente, non si riusciva a capire chi era quelli che li colpiva. Erano quelli di Forza Nuova, perché dentro a questa organizzazione era una prova di forza per poter accedere e farne parte. Se tu andavi a picchiare un venditore di rose pakistano, che ovviamente non poteva né difendersi né denunciarti. È nata una indagine che si è chiamata il Bangla Tour, perché chiamavano Bangla Tour quelli di Forza Nuova queste loro imprese, e lì la magistratura ha cominciato ad aprire delle cose. Non verrà sciolta Forza Nuova, questo dobbiamo mettercelo in testa, anche perché c'è un Presidente della Repubblica che ha fatto presente a chi è andato a chiedergli se avesse avuto, avesse, come dire, una disponibilità, se si fossero mosse le forze politiche in Parlamento, ha fatto sapere chiaramente che lui non avrebbe mai firmato, controfirmato, uno scioglimento dell'organizzazione Forza Nuova. E quindi, se avete visto, a un certo punto è come se si fossero bloccati tutti. Cioè, sui giornali, nelle dichiarazioni, vanno sciolti, vanno sciolti, vanno sciolti. A un certo punto nessuno più ha detto vanno sciolti, perché il Presidente della Repubblica gli ha fatto sapere che lui non aveva nessuna intenzione di concedere a loro un eventuale assenso a una proposta che gli veniva di scioglimento. E quindi Forza Nuova continuerà a esistere, cercherà di rimettersi in pista, continuerà, come dire, nelle sue difficoltà. Dobbiamo tenerlo presente che però questa è un'organizzazione estremamente violenta. Noi come osservatorio abbiamo dato più volte i dati delle violenze di Forza Nuova, i dati ufficiali forniti dai ministeri degli interni, non i dati semplicemente raccolti sui giornali. Non c'è nessun'altra organizzazione politica in Italia che ha avuto un numero così elevato di condannati, denunciati per violenze in Italia. Non c'è nessuno che ha avuto un livello così alto. Noi dovremmo fare come in Grecia, lasciar perdere le leggi Mancino e la legge Scelba e pensare che chi è, come dire, a questo livello è un'associazione delinquere. Ci sono le leggi ordinarie delle associazioni delinquere che consentirebbero di sciogliere di fatto questa organizzazione. Non siamo lì, non credo che ci arriveremo, però guardate che questa è un'organizzazione violenta, perché questo nella loro crapa è, come dire, il ritorno alla marcia su Roma, anche se noi dobbiamo temere un altro tipo di marcia su Roma, che è quella del tentativi di modificare la Costituzione. Quella è la marcia su Roma dei tempi nostri, dei tempi moderni, è l'elezione del Presidente della Repubblica diretta. Ci aveva già pensato sempre Almirante, 1982, tredicesimo congresso, elezione diretta del Presidente della Repubblica, la pigliano da lì. Se uno va a vedersi le tesi del 1982 del Movimento Sociale Italiano, e dentro lì è la cosa dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Apro parentesi, Almirante propose anche un paio di altre cose in quel congresso, la Camera delle Corporazioni, e va bene, ma anche la pena di morte per i terroristi. Se fosse passata quella proposta lì, alcuni, se non pochissimi, del Movimento Sociale Italiano sarebbero stati passati per le armi, perché sono stati riconosciuti dai tribunali con sentenze definitive come terroristi e come stragisti. Chiusa parentesi. Casa Pound è in una fase di attesa. I fascisti aspettano, vogliono sondare, probabilmente tenteranno di vedere se è possibile che si aprano dei varchi. Se uno legge i tweet di questi giorni, dopo le elezioni di La Russa al Senato e la futura nomina di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio, capisce che loro sono in un'attesa e pensano che sia arrivato un momento che per loro si aprono delle porte, delle prospettive, no? Togliere i finanziamenti all'ANPI. E com'è che noi non entriamo nelle scuole? Ci entra solo l'ANPI e noi non entriamo nelle scuole? Adesso il 29 di ottobre a Roma ci sarà una strana manifestazione degli ufficiali in congedo. Ci saranno le autorità presenti alla manifestazione. Prima nella sua storia, da quando esiste, dal 1926, il 29 ottobre, l'Unione degli ufficiali in congedo fa una manifestazione con tribune che verranno montate a Porta Venezia. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione? Vogliamo entrare nelle scuole, vogliamo essere lì, vogliamo essere come gli altri, perché è finita questa della Repubblica degli antifascisti. E Casa Pound fa parte di quelli che sono dentro a questa zona, dentro a questa aspettativa, dentro a questa situazione. Continuano a coltivare una serie di relazioni. Chi è che compra il Primato Nazionale, che è la loro rivista mensile? Non ci scrivono loro su quella rivista, ci scrivono tanti esponenti di primo piano del centrodestra, ci scrivono senatori e deputati leghisti, dei Fratelli d'Italia, altri. È una rivista quasi, come dire, di coltivazioni di relazioni, e dove c'è, come dire, dentro anche a questa rivista un'idea diversa del mondo e della società italiana, che dobbiamo tenere presente. Adesso va per la maggiore l'ultima opera di Alain de Benoist, Che cos'è l'ideologia del medesimo, si chiama così. Ieri La Verità gli ha fatto anche una recensione. Leggo di de Benoist: il genere è disancorato dal sesso, le appartenenze etniche sono proibite, i popoli si trasformano in masse anonime di consumatori apolidi, le economie locali sono assorbite dal mercato globale, le manifestazioni del sacro sono ridotte a folklore, le lingue sono inquinate dal gergo globish, su questo c'ha ragione, i costumi sono dettati dalle mode dei brand globali. E questa è una visione diversa, alternativa della società. Non è vero che questi non hanno nei piani alti dei loro staff, dei loro gruppi dirigenti, c'hanno anche dei pensatori di riferimento che fanno una critica al capitalismo da destra che può avere presa. Se voi leggete queste cose che vengono dette, che può sfondare da qualche parte, che infatti da qualche parte questa cosa, di fronte all'assenza di movimenti democratici, di sinistra, eccetera, questa cosa non è detto che rimanga assolutamente, è un'idea, una parte di loro guarda più che al putinismo, alla Russia, perché lì c'è il tradizionalismo. Si vuole tornare all'anterivoluzione francese, guardate, si è però contro l'Occidente. In un momento come questo, la bandiera dell'essere antioccidentali, agitata da destra, è una bandiera su cui noi dobbiamo, come dire, prestare la nostra massima attenzione. Vado a chiudere, scusandomi per la lunghezza, su noi e l'antifascismo. La storia dell'antifascismo in Italia forse un giorno andrebbe fatta, perché noi abbiamo avuto, non sembrerà strano, anche momenti peggiori di questo. Fino al 1960 l'Italia, da questo punto di vista, era qualcosa di inimmaginabile per noi ai tempi in cui viviamo. Non si potevano fare le manifestazioni in ricordo della Resistenza. Ti raccontano quelli che venivano caricati in Piazzale Loreto che tentavano di fare le manifestazioni. Era un paese in cui tu non potevi distribuire volantini o attaccare manifesti se non avevi l'autorizzazione. Erano tempi in cui tu, per fare un comizio, dovevi dire in questura qual era l'argomento che dovevi trattare. Ed era successo più di una volta che se tu non trattavi quell'argomento venivi caricato dalla polizia. Le forze di polizia erano dei reparti militari, avevano strutture che avevano recuperato dall'esercito. Durante gli scioperi c'erano le circolari dei ministeri degli interni che dicevano che chi veniva a trattare doveva essere arrestato, e quindi era uno scontro frontale. Figure eroiche della Resistenza erano state arrestate per delle manifestazioni non autorizzate in favore della pace. Carla Capponi fece una manifestazione nel 1958 per la pace e fu arrestata, e in Parlamento Tambroni, che era ministro degli interni, esaltò l'arresto di Carla Capponi come giusto gesto, giusta forza da parte dello Stato contro i sovversivi. C'era dentro agli apparati militari e dell'esercito l'idea, e lo scrivevano, non semplicemente lo dicevano, dello scioglimento del Partito Comunista Italiano. C'erano i progetti di scioglimento del Partito Comunista. Il luglio 60 ha rovesciato questo paese, ha introdotto l'antifascismo nel dibattito politico e ha dato una svolta a questo paese anche dal punto di vista dell'agibilità politica e delle libertà democratiche. È stato quello che poi ha trasmesso ai movimenti del 68 questa coscienza antifascista. Ed erano le nuove generazioni, non erano neanche quelli che sono venuti alla Resistenza hanno fatto questa battaglia, ma l'elemento nuovo erano stati i giovani, che quelli delle magliette a strisce, perché andavano di moda le magliette a strisce in quel periodo, che fecero le battaglie di strada contro le forze di polizia, che si batterono, ci furono più di 10 morti nell'estate del 1960 per fare cadere il governo Tambroni. C'è stato di peggio in Italia. Adesso cos'è successo in questo paese? Che il movimento antifascista è diventato un movimento celebrativo che ricorda il passato come se dovesse essere un ricordo. non è stato capace di andare oltre la rievocazione, non è stato capace di occuparsi del presente, non ha avuto i linguaggi del presente, perché bisogna avere anche un linguaggio se tu vuoi avere la possibilità di entrare dentro alle nuove generazioni. L'antifascismo ha perso campo, è diventato una cosa che sembra essere una delle facce della difesa dell'esistente, delle attuali istituzioni, che non sono istituzioni che sono apprezzabili per tante ragioni che conosciamo, di cui potremmo fare l'elenco. È diventato un fatto di conservazione. Il modo di fare antifascismo di tutti questi anni è stato vissuto da larghe parti della gioventù italiana come un fenomeno conservativo, e chi è che voleva invece trasgredire, essere contro il sistema, non ha guardato all'antifascismo. E quando quelli ti dicono noi siamo contro il sistema e siamo contro queste cose e noi ci abbiamo dei valori di riferimento, e magari ti riscoprono come ha fatto Casa Pound, Che Guevara, noi dobbiamo dire che dobbiamo pensare di essere una minoranza che deve recuperare, e lo può fare solo se non separa, secondo me, il movimento antifascista dai movimenti sociali. Io non penso purtroppo che a presto nascerà un soggetto di sinistra in Italia. Temo che la strada sia ancora più lunga e accidentata di quello che si possa credere. Però i soggetti politici nascono se ci sono dei movimenti in retroterra, dietro, se ci sono delle organizzazioni di massa, che ci sono ancora in questo paese. Penso alla CGIL, nonostante tutto, come movimento che si sta ponendo nel suo dibattito interno il problema. Lo si sta ponendo il problema di come sui luoghi di lavoro alcuni valori sono scemati. Se lo sta ponendo, non so se poi sarà in grado di poter davvero muovere le sue leve per affrontare seriamente questo nodo. Ma se noi separiamo l'antifascismo dai movimenti sociali di trasformazione, di difesa dei diritti sociali, se noi li separiamo, perde il movimento antifascista e perdono i movimenti sociali. Noi dobbiamo fare un'opera, anche voi potete fare un'opera del Baraonda. Baraonda è una cosa importante, io non la sminuisco dal punto di vista del panorama dei soggetti che ci sono nella metropoli milanese. Non sarà un'organizzazione politica, non siete un'organizzazione politica, però si può fare un pezzo di strada, si può dare un contributo da questo punto di vista, che è quello della non semplicemente del movimento valoriale, ma del movimento valoriale che è legato a un movimento sociale, quindi i diritti più i valori dell'antifascismo, che non sono i valori della rievocazione. Molti di noi o di voi sono dentro l'AMPI, e questo è il lavoro che bisogna fare anche dentro l'AMPI, e cioè fargli capire questa cosa qua, che non è che è possibile pensare che attraverso le corone e le date celebrative noi si possa far fronte alla situazione che sta venendo avanti, e che bisogna fare un lavoro di lunga lena diverso fatto in questo modo. Mi scuso per la lunghezza. Grazie a Eric, grazie a Saverio. Nostra intenzione adesso è aprire il dibattito, non solo in termini di domande, chiaramente i nostri relatori sono qua a disposizione di tutte e tutti, però anche in termini di eventuali interventi a integrazione di quello che è stato detto e più in generale del tema dell'iniziativa e della serata. Ecco. Quindi lasciamo un pochino la parola a voi se qualcuno vuole intervenire. Ciao, come Gabriele introduceva, una delle preoccupazioni di questo nuovo governo sono gli attacchi ai diritti. Quindi subito mi è venuto in mente, non so, il diritto all'aborto, le questioni del transfemminismo. Io, pensandoci un po', avevo cercato un po' di dati, soprattutto anche durante la campagna elettorale, quando Giorgia Meloni ha fatto uno dei suoi punti principali era il diritto della donna di non abortire, quindi lei ha detto spesso di non voler abrogare la 194, ma anzi ampliarla. Perciò io, incuriosita, ho cercato dei dati che sono un po' imbarazzanti, ad esempio, non lo so, in Italia c'è il 70% di ginecologi obiettori, addirittura in certe regioni, per cui casualmente sono governate dalla destra, c'è anche il 90% di medici obiettori. E andando poi a vedere la 194, scopro che comunque è una legge per la tutela della donna, non tanto del diritto dell'aborto. E lascia un sacco di falle, ad esempio appunto questa l'opportunità di avere nelle strutture pubbliche medici non obiettori, anche perché dovrebbero essere dalla legge soltanto chi pratica l'aborto chirurgico, non tutto quello che ci sta attorno. I consultori non dovrebbero poter essere obiettori, insomma. Quindi la mia non è tanto una domanda, è più una paura e quindi uno spunto per una riflessione, visti anche i nuovi presidenti di Camera e Senato che sono apertamente omofobi e contro l'aborto, e visto anche che ad esempio in Piemonte 2 settimane dopo le elezioni Fratelli d'Italia ha dato il via libera a questo progetto in cui vengono stanziati 400.000 euro per le associazioni pro vita che faranno presidi nelle ASL, nei consultori, per convincere insomma le donne a non abortire, dar loro dei soldi e un aiuto per un anno di cura dei loro figli. Perciò ecco, mi chiedevo cosa dovremmo aspettarci, visto che già in Italia è difficile, cioè questi diritti ottenuti è difficile poi realmente metterli in pratica e avere sostegno. Cosa aspettarci, come i movimenti transfemministi possano continuare, cosa possono fare ancora di più per contrastare, insomma. Non so se sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, però io condivido la tua preoccupazione, ecco, e credo che sia una preoccupazione molto seria, perché questo governo difficilmente potrà cambiare, come dire, modificare la linea politica più profonda che il nostro paese sta seguendo da molti decenni, cioè il legame di politica internazionale. È stato già detto, peraltro il partito appunto Fratelli d'Italia è sempre stato atlantista, quindi non c'è ragione che cambi prospettiva adesso, ma comunque in ogni caso l'Italia ovviamente non si può posizionare in nessun altro modo rispetto alla guerra attuale. La politica interna difficilmente può cambiare, come difficilmente può cambiare la politica economica, quindi diciamo profondamente non cambierà molto nella nostra società. Quello che invece potrebbe cambiare, e cambiare molto anche le nostre vite, riguarda questo genere di politiche che colpiscono appunto il diritto all'aborto, la comunità LGBT, come dire, politiche della memoria, politiche culturali. Su questi aspetti che sono più in parte simbolici, ma in parte anche molto concreti, molto, che colpiscono la vita reale delle persone, che modificano la società in maniera anche molto profonda, potrebbero avere questo nuovo governo potrebbe avere un impatto molto forte. Questo secondo me è molto preoccupante. Diciamo che rispetto alle questioni che sollevate prima, io credo che siamo di fronte davvero a un grande rischio. Poi possiamo essere più o meno ottimisti, nel senso pensare che in fondo questi sono talmente incapaci che falliranno in breve tempo e non riusciranno a portare avanti le politiche che hanno in mente, e che presto si tornerà a un governo borghese classico come quello che avevamo prima, di grandi alleanze, e quindi rappresenta, diciamo, in maniera più evidente appunto i poteri forti che governano il paese. Oppure possiamo pensare che questo governo sia in grado di interpretare gli interessi di quei poteri forti e non solo portare avanti questo tipo di politiche, ma anche come dire, interpretare quello che sono i suoi obiettivi profondi, che sono quelli non solo del presidenzialismo, ma anche di un sistema prettamente autoritario, basato sulla censura, sulla propaganda e sul dominio delle istituzioni in maniera totale, diciamo. Il che è assolutamente plausibile anche alla luce delle cose che dicevi e dei legami che i partiti che governeranno l'Italia hanno con altre realtà evidentemente eversive, esplicitamente eversive, diciamo. Non so, dovremmo vedere che cosa succede. Ecco, appunto, in questo momento possiamo solo essere più o meno ottimisti o pessimisti. Si tratta di vedere che cosa succede e naturalmente provare a perlomeno monitorare, se non a reagire. Un aspetto che hai sottolineato, che è quello della violenza, l'hai ripetuto più volte, sia parlando al passato, cioè la marcia su Roma e quell'epoca di violenza che ha portato al governo fascista, perché effettivamente il governo fascista storico è il risultato di 2 anni di estrema violenza contro le forze progressiste dell'epoca. E oggi di nuovo ci troviamo con forze eversive legate a questo nuovo governo che praticano violenza quotidiana e abituale. Ovviamente la violenza è diversa, il livello di violenza è diverso, i morti non ci sono, sono molto rari. Però esiste questo aspetto ed è un altro, di nuovo, un aspetto su cui, come dire, dalla parte antifascista non c'è capacità di reazione. All'epoca possiamo dire le forze antifasciste non avevano lo Stato dalla propria parte, come abbiamo detto, no? La connivenza delle istituzioni nel 1922 è stata fondamentale per permettere ai fascisti di arrivare al potere, ma anche nei 2 anni precedenti, per permettere ai fascisti di avere gli strumenti, le armi, la forza anche militare di combattere contro le forze antifasciste. Oggi mi sembra che tanto meno ce l'abbiamo noi la forza militare di contrastare questo tipo di violenze, però è sicuramente un altro degli aspetti molto preoccupanti. Io pensavo mentre facevi riferimento a tutte queste forze neo-post, chiamiamole come vogliamo, mettiamo il prefisso che ci piace di più a tutto questo fascismo successivo al fascismo storico, che in fondo 30 anni fa, credo, Umberto Eco aveva definito tutto questo urfascismo o fascismo eterno, che è una definizione, secondo me, che è molto calzante, perché ci permette di mettere insieme le due forze che governeranno l'Italia, cioè Lega e Fratelli d'Italia, con anche queste forze più marginali, più estremiste, più eversive di cui abbiamo parlato, che in fondo tutte quante rappresentano un sistema di valori che va al di là della definizione, perché alla fine, al di là dei simboli, al di là del usare o meno la fiamma, usare o meno il saluto fascista durante le commemorazioni, eccetera, che secondo me sono aspetti veramente molto marginali, meno significanti. Ciò che invece è molto più significante è quello a cui facevi riferimento tu, e l'impatto appunto delle politiche reali, pratiche, e degli obiettivi pratici, reali, concreti di queste forze, che fanno tutti riferimento a un sistema di valori, che è il sistema di valori sostanzialmente che si può definire fascista, a prescindere che la forza di riferimento abbia, cioè che la forza che pratica questo tipo di politica si definisca fascista o utilizzi simboli fascisti. In questo senso la Lega non è assolutamente dissimile dalle altre forze che abbiamo nominato. Ovviamente questi sistemi di valori sono basati sull'uso della violenza o la disponibilità dell'uso della violenza contro l'avversario, sulla volontà di imporre un sistema autoritario, sul razzismo, sul sessismo, sull'omofobia, il tradizionalismo religioso, cioè tutti questi aspetti che compongono appunto quello che Umberto Eco definiva il fascismo eterno. E questo è quello con cui noi ci confrontiamo. Secondo me forse è anche tutto sommato non così rilevante fare tanti distinguo o appunto fare riferimento all'appartenenza a un campo prettamente fascista, appunto simbolicamente fascista. Quanto più questo elemento profondo della politica concreta e reale, degli obiettivi concreti e reali, è quello che davvero ci dovrebbe preoccupare di più. E in questo senso io temo che le forze politiche che hanno governato fino adesso l'Italia hanno voluto giocare col fuoco, cioè hanno voluto far cadere la Meloni in una trappola, farla governare in un momento in cui l'Italia affronta una crisi economica notevole, e l'affronterà nei prossimi mesi in maniera ancora più grave, soprattutto legata alla guerra, ma non solo. Stanno correndo un rischio molto grande, che è lo stesso rischio che hanno corso le forze conservatrici nel 1922, pensando di dare il governo a Mussolini per qualche mese e poi riprendere le redini del paese. Ecco, appunto, vorrei sbagliarmi, spero di sbagliarmi, io ho sempre lo sguardo positivo in quelle due versioni che dicevo prima, io sono per il bicchiere mezzo pieno, quindi spero che sia che non vada come è andata nel 22, nel 1922, ma io credo che si sta correndo lo stesso rischio, ecco. Sì, volevo fare una considerazione, sono Ivan di Marxpedia. Volevo fare una considerazione e una domanda dal punto di vista storico, nel senso che io credo che dovremmo dare in un'assemblea come questa una definizione di fascismo. Io credo che, se dovessimo sintetizzarlo, si tratta di un movimento reazionario che si basa sulla piccola borghesia sostanzialmente per difendere il capitalismo, un capitalismo in crisi. Ora, un movimento che per l'epoca è un movimento nuovo, non c'erano stati allora movimenti con queste caratteristiche. Bisogna però chiarirsi, quando diciamo che era un movimento che si basa sulla piccola borghesia, che cosa intendiamo. Un movimento che si basa sulla piccola borghesia perché i settori a cui guarda il primo fascismo sostanzialmente sono quelli, gli ex soldati, gli ex ufficiali, i piccoli proprietari, i professionisti, tutti quei settori che dal punto di vista della produzione si collocano a metà tra le due classi che allora erano in lotta durante il Biennio Rosso, che sono appunto il movimento operaio contadino da un lato e il padronato, gli industriali e gli agrari dall'altro. Ora, la caratteristica del primo fascismo è quella di mescolare un po' una serie di elementi da questo punto di vista. Se voi andate a vedere proprio il primissimo programma del movimento dei fasci di combattimento quando nascono nel marzo del 19, sicuramente c'è tutta l'esaltazione del nazionalismo, l'esaltazione del mito della guerra, perché appunto siamo nel primo dopoguerra e quindi c'è il discorso del mito della vittoria mutilata, di Fiume e tutto, e il fascismo guarda sicuramente a questo settore. Tuttavia cerca di mettere dentro nel proprio programma anche una serie di rivendicazioni progressiste, per esempio il voto alle donne, la richiesta delle 8 ore. Tutto questo in realtà in un periodo come quello del Biennio Rosso, in cui i lavoratori avevano ben altri obiettivi, che era quello del fare come in Russia. E il fascismo mette queste parole d'ordine all'inizio, dopodiché la prima uscita pubblica, è importante ricordarlo, è 3 settimane dopo la fondazione, quando a Milano, durante uno sciopero generale, assaltano un corteo dei socialisti e assaltano la sede e devastano la sede dell'Avanti. Quindi questo è un attimino per chiarire l'inizio del primissimo fascismo, che è, diciamo, queste parole d'ordine vengono portate avanti per qualche mese, perché poi, soprattutto dopo l'insuccesso dal punto di vista elettorale nel novembre del 19, in cui non eleggono nessuno, finiscono poi per abbandonare subito anche quelle poche parole d'ordine fintamente progressiste. Mussolini chiarisce poi già nel 1920 e poi nel 1921: noi siamo una forza reazionaria, siamo la forza dell'ordine, e il padronato e gli agrari daranno un grande sostegno sia politico che economico da questo punto di vista. E questo, secondo me, è un passaggio molto importante. E non ci saranno solo, appunto, gli industriali, gli agrari convintamente fascisti. C'è anche una grande collaborazione da questo punto di vista anche del movimento liberale e il movimento anche conservatore. Pensate al ruolo dell'ex presidente del Consiglio Giolitti, che alla fine aveva l'obiettivo di a un certo punto di normalizzare i fascisti, per dire cerchiamo di istituzionalizzare in un certo modo, li spogliamo degli aspetti più brutali, magari gli facciamo fare qualche devastazione in meno delle camere del lavoro, qualche assalto in meno alle sedi del Partito Socialista, del Partito Comunista, e li facciamo entrare nel gioco parlamentare, ovviamente con le loro posizioni, che una persona può condividere, un elettore può condividere o meno, ma l'obiettivo è esattamente questo. Per esempio Luigi Einaudi alla vigilia della marcia su Roma fa di fatto un endorsement a Mussolini, Luigi Einaudi che sarà uno dei primi presidenti della Repubblica. A livello internazionale lo stesso Winston Churchill, in una intervista del 1927 al Corriere della Sera, dice chiaramente: io sarei stato fin dall'inizio con voi nella sconfitta nella lotta contro gli appetiti bestiali del leninismo. E queste, secondo me, sono una serie di elementi, e su cui vado a chiudere facendo una domanda, sono una serie di elementi importanti. Spesso si sente dire che se il re avesse firmato lo stato d'assedio, si sarebbe potuto sconfiggere il fascismo. Io credo che ci sia un elemento da considerare in tutto ciò, ovvero che eravamo al momento della marcia su Roma nel 1922, il movimento operaio è ormai sconfitto, il Biennio Rosso è sconfitto, lo sciopero legalitario che viene fatto nel 22, organizzato dalle organizzazioni sindacali, sono state sconfitte, e come dicevo prima buona parte della borghesia tentava di coinvolgere i fascisti con l'obiettivo di normalizzarli. Credo che dire che sarebbe bastata la vittoria militare per sconfiggere il fascismo, credo che sia un po' un'esagerazione, se teniamo conto del contesto storico del 1922, perché non siamo più il primo fascismo che fa qualche devastazione, qualche assalto, non siamo nel 1919-1920 in cui è il movimento operaio, il movimento contadino che avanza. Per cui chiedo un parere su questo, da questo punto di vista, se concordate sul fatto che sarebbe bastato che il re proclamasse lo stato d'assedio per sconfiggere non solo militarmente ma proprio politicamente il fascismo. Grazie. Non sono un esperto di questa parte di storia, però quello che ti posso dire è, lo accennavo anche prima, ma lo dicevi anche tu, cioè la marcia su Roma è il risultato di una connivenza dei poteri forti dell'epoca a favore del fascismo, che prescinde da quella data specifica, da quell'evento specifico, quindi cioè, era già forte ed era già era già voluta da tempo la presa del potere del fascismo in qualche modo, quindi non credo che sarebbe cambiato molto, ecco. Bisogna però anche dire che il re in quell'epoca storica aveva un peso, un'importanza e un ruolo molto rilevante, come succede talvolta nella storia, almeno due episodi che hanno coinvolto il re nell'epoca storica del fascismo sono episodi che hanno a che fare con la sua scelta personale. Uno è questo, sicuramente, cioè noi non possiamo realmente sapere cosa sarebbe successo se, però probabilmente sarebbe andato in maniera leggermente diversa la vicenda, non è affatto detto che i fascisti avrebbero governato da soli, avrebbero governato in quel modo, eccetera, non lo sappiamo. E quindi questa è stata in parte anche una responsabilità che va attribuita direttamente e personalmente al re. L'altra data, che per me è una data storica fondamentale nella storia del fascismo, nella storia dell'Italia del Novecento, è quella dell'8 settembre del 43, cioè la scelta, il 25 luglio e l'8 settembre, cioè quella scelta nel giro di poche settimane di liberarsi del fascismo, fare la pace con gli alleati nelle modalità con cui è stata fatta, ha comportato una dose di sacrificio per il nostro paese colossale e imperdonabile, io credo. Questo è un altro elemento su cui, come dire, sul banco degli imputati bisogna mettere direttamente la singola persona che ha fatto quelle scelte, cioè il re Vittorio Emanuele III, che a mio avviso da storico è uno dei peggiori criminali della storia dell'Italia nel Novecento. Non che Mussolini non lo sia, naturalmente, intendiamoci, questo è ovvio, ma come dire, da Mussolini ce lo aspettiamo, la sua posizione politica era chiara, il re forse viene meno spesso messo sul banco degli imputati. È un po' come dire Roberto Fiore, sappiamo che cos'è, ma forse dovremmo chiederci chi è che ha dato tutto questo potere ai fascisti che governeranno l'Italia tra poco. Io sono abbastanza d'accordo, anzi sono d'accordo. Volevo aggiungere questo. Quando c'è l'assalto all'Avanti, la cosa grave, da un punto di vista istituzionale, che accade, poi i morti sono tre quel giorno lì, perché altri due vengono uccisi in via Dante, muore anche un soldato davanti alla redazione dell'Avanti. La cosa grave è che a Milano arriva il ministro della guerra, si chiamava Caviglia, che convoca Marinetti e si congratula con lui. Insieme a Marinetti ci sono alcuni degli arditi che hanno fatto l'assalto, per la sua iniziativa, che dice Caviglia ha salvato l'Italia. Cosa succede? Che a partire da quell'assalto lì arrivano i finanziamenti al primo movimento fascista, perché il primo movimento fascista è totalmente sgangherato, è composto quasi in modo totale di coloro che venivano dalle trincee della guerra, degli arditi. C'è il famoso sì, perché che riguarda i ricercatori, i report della riunione che viene fatta a Piazza San Sepolcro, dove la questura dice erano 300, una riunione completamente fallita. Il Corriere della Sera il giorno dopo parla delle conferenze domenicali e mette la cosa di fianco a un articolo di furto di 64 casse di sapone in via Pomponazzi a Milano. Cioè, tre settimane dopo fanno l'assalto all'Avanti, ma dopo l'assalto all'Avanti c'è questo primo passaggio dell'esercito e c'è il passaggio dell'arrivo dei finanziamenti al primo movimento fascista, che sono gli industriali. Questo cambierà la composizione sociale del movimento. Quando si arriva al primo congresso del movimento fascista non ci sono più quelli, sono scomparsi, sono diventati assolutamente la parte minoritaria, sono arrivati altri, non è più neanche la piccola borghesia incazzata. E cioè questo movimento si trasforma, lo si vede anche dai numeri. Nel 1919 il movimento fascista ha 800 aderenti, alla fine del 1920 sono 20.000, nel 1921 sono 400.000, dopo la marcia su Roma sono 800.000. Quindi significa che c'è una cosa, cioè l'investimento su questo movimento, su questa realtà che ha piegato il movimento operaio. Se uno va a rileggersi Nascita e avvento del fascismo di Angelo Tasca, vede, e lui dà molta importanza, la centralità della violenza, e cioè la sistematicità con cui viene piegato il movimento operaio, che non è in grado di reagire se non in alcune circostanze. C'è una divisione tra poi i comunisti e i socialisti. I comunisti hanno anche un'analisi, al di là di Gramsci, che non è centrata sul movimento fascista. Se uno va a leggersi ancora le cose di Ordine Nuovo, ma le cose di Bordiga e dei dirigenti del primo movimento del Partito Comunista, si dice che la marcia su Roma è una bega tra i borghesi, cioè non hanno capito che cosa stava succedendo, non è che proprio capiscono tutti che cosa sta succedendo, nonostante si arrivi da una sconfitta del tutto evidente.